Questo tema può essere declinato in tanti modi, no? La questione di Enrico Mattei, del petrolio, dell'energia. Abbiamo pensato che lasciamo carta bianca al nostro relatore, al nostro ospite, Marco Pugliese, docente, giornalista e da poco anche insegna all'Università di Salone, e che spesso ci accompagna in biblioteca nelle promozioni di libri e soprattutto di temi che possono stuzzicare l'approfondimento di lettura da parte del pubblico. E questo è un compito della biblioteca, per cui ci siamo molto contenti e lo ringraziamo per l'aiuto che ci dà spesso Marco Pugliese con i suoi argomenti stuzzicanti. Quello di Enrico Mattei è un tema veramente interessante, perché oggi come oggi il tema dell'energia e dell'approvvigionamento, forse anche di questa diciamo, dipendenza da parte dell'Italia per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico, sono temi caldi che ci riguardano tutti da vicino, nessuno è diciamo, esentato immune da questa problematica, ma scopriremo con lui nel passato recentissimo quali sono stati i problemi, le contraddizioni e comunque questo alone che ricopre e riveste una figura straordinaria, di sicuro spessore come Enrico Mattei, e che ci coinvolge con dei risvolti ancora oggi diciamo. Volevo segnalarvi anche due gruppi di lettura che di solito noi portiamo avanti il pomeriggio del mercoledì dalle 17.30 alle 18.30. Uno riguarda la narrativa, si intitola Localmente, vengono letti libri di narrativa del territorio, abbiamo letto Ada Dorme, l'abbiamo letto poi Resto Marco qui, Balzano, Marco Balzano, sì. Marco di Sartori. Marco, il mio Marco di Sartori, sì. Bravo Fabio, vero che sì. Anna e Fabio, ho studiato, preparato. Se avete piacere, importante studiare. Si leggono questi libri e in quell'ora, in un circuito, così tra persone, ci si commenta, si esprimono opinioni, ci si conta. Altrimenti, questo è dalle 17 alle 18.30, altrimenti, e questo va in pandan con la serata di oggi, abbiamo il gruppo local, Tutti Saggi, che riguarda temi di saggistica, quindi è un esperimento che facciamo. Il prossimo appuntamento è mercoledì 16 novembre alle 17, no pardon, giovedì 17 novembre alle ore 17.30 in questa sala, un'ora dura, e sarà dedicato al water dropping, cioè questa indisponibilità di acqua pulita per la maggior parte della popolazione sulla terra, e questo rischio che però dovremo correre anche noi prima o poi. Quindi ci saranno dei testi, si discuterà su questo argomento, c'è un facilitatore che si muoverà e insomma condurrà il gioco, diciamo, e ci saranno appunto i libri legati all'Agenda 2030 e a questo goal dell'Agenda 2030 che riguarda appunto la disponibilità di acqua e potabile, e soprattutto anche di raggiungere un livello di igiene che abbassi per esempio una malattia stupida come il colera, che diventa mortale in due continenti succede. Marco, ti ringrazio ancora a nome della biblioteca e vi auguro una buona serata, sperando di vedervi anche nelle prossime nostre iniziative. Grazie. Grazie. Io ringrazio Valeria, e quest'anno sono esattamente 12 anni che facciamo conferenze di questo tipo, iniziative di questo tipo con la Biblioteca Claudio Augusta, ancora quando era in via Mendola avevamo iniziato, e quindi insomma abbiamo anche, questa con Mattei è un po' un esperimento, nel senso che sarebbe un ciclo di l'idea è quella di fare un ciclo di conferenze dove si vanno a sviluppare vari aspetti, però di Mattei in vita, non del caso Mattei. Il caso Mattei lo si farà alla fine, perché se no non si capisce mai questo Mattei che cosa abbia fatto, cioè si parla solo della sua morte e poi della sua vita non sappiamo quasi nulla. Io ho fatto una ricerca dei vari libri che sono sia in questa biblioteca sia in giro per librerie eccetera, e ho trovato che si parla o del caso Mattei oppure in maniera abbastanza disgustosa si parla del suo rapporto con questa serie di amanti che aveva, che però anche lì, insomma, questo biografo non è che sia stato proprio onesto intellettualmente, perché poi ha anche confessato di averlo fatto postumo, di aver parlato con, poi si è anche pentito, ha scritto un controlibro, quindi non ho capito se era un marketing per poi riscrivere il libro oppure, poi adesso c'è qualcosa che non torna, insomma. Il caso Mattei è un po' particolare perché per la magistratura era stato un semplice incidente, poi è venuto fuori invece che non lo fosse, il contadino che ha visto l'esplosione poi è stato ripreso e ha cambiato versione 2-3 volte con i carabinieri eccetera, quindi quello è un caso che merita una conferenza, e purtroppo il Covid aveva bloccato le conferenze perché io ero partito proprio con Petrolio, quindi col romanzo di Pasolini, dove all'interno c'è anche Enrico Mattei e ci sono di fatto c'è anche lui, anche se Petrolio è stato scritto prima dell'omicidio Moro, ma c'è anche l'omicidio Moro all'interno di Petrolio, e in realtà se tiriamo proprio la corda riusciamo a capire cosa successe anche nel 1992 in Italia, quindi in realtà Pasolini aveva capito quello che il giornalismo d'inchiesta non era riuscito a tirare fuori, o meglio chi ci è andato vicino è morto, e soprattutto il grande scontro che in quel momento c'era sulla faglia tra mondo occidentale e mondo orientale, ovviamente in quel caso parliamo dell'ex Unione Sovietica, quindi quel periodo storico va proprio rivisto e non rivisitato come qualcuno si sbaglia a fare, proprio va rivisto, vanno riprese delle testimonianze e vanno rimesse in campo, anche del 1992. Gli anni chiave in realtà finiscono per due, perché parliamo del 1942, quando Mattei iniziò a teorizzare il futuro dell'Italia, quindi c'era ancora il fascismo a cavallo, ma stavamo andando verso il 43, verso il disastro che tutti conosciamo. Poi il 1952 in realtà è un anno particolare, perché lì proprio viene creato l'idea dell'ENI, poi vi farò vedere che l'ENI non è un semplice ente statale che è stato privatizzato, è qualcosa di più. E poi il 62, la morte di Mattei, e poi il 1992, che è uno spartiacque della storia d'Italia e che viene sempre associato solo a Tangentopoli, ma in realtà ha proprio spaccato quello che era il mondo, cioè noi abbiamo capito nel 92 cosa è stato il muro di Berlino, non l'abbiamo capito nell'89, l'abbiamo capito nel 92, perché gli Stati Uniti hanno iniziato a porsi come la unica potenza a mettere le basi per far inserire la Cina in questo gioco commerciale, e che poi gli si è ritorto contro, però, perché la Cina è stata fatta entrare nel 2001 e poi praticamente si è comportata come gli Stati Uniti, cioè ha nominato suoi uomini, se ricordate l'OMS durante il Covid, quel primo Covid, no? Dove l'OMS era di fatto governata da tutti gli emissari nominati dalla Cina, e quindi è chiaro che questo gioco ha spostato anche gli equilibri. In questo momento preciso, in realtà, per gli Stati Uniti il vero nemico è la Cina. La Russia è un nemico secondario che viene combattuto in un certo modo, però è un nemico secondario. Infatti se i repubblicani dovessero vincere le elezioni di metà, probabilmente potrebbero anche ritirare la delega a Zelensky sulla guerra di procura. Quindi questo gira negli ambienti repubblicani, nei think tank repubblicani e anche democratici, perché vi ricordo che i democratici sono gli interventi, cioè un'altra cosa che Mattei capì e sfruttò a favore dell'Italia è che gli Stati Uniti non ragionano come noi, quindi la destra e la sinistra statunitense non sono la destra e la sinistra italiana, la sinistra statunitense è interventista e la destra no, perché la destra dice io mi tengo le mie risorse, faccio accordi, non è molto imperialista perché non ha quella missione di creare nuove civiltà, ma semplicemente di tenere gli interessi economici, e il mercato globale gli interessa relativamente. Invece la sinistra, che è globalista però a livello economico, quindi bisogna stare attenti anche, la sinistra americana ha tutti gli interessi di impiantare aziende, quindi un neocolonialismo di ritorno di fatto che hanno compiuto gli Stati Uniti, non che i russi non lo facessero, i russi lo facevano in un altro modo ancora, quindi stiamo davanti, e i cinesi lo fanno in un terzo modo ancora, i cinesi lo fanno in maniera gentile, perché sono una potenza diversa, quindi creano l'associazione degli imprenditori cinesi in Italia e tu pensi che siano amici tuoi, in realtà lì dentro ci sono delle correnti del Partito Comunista Cinese che danno una direttiva, attenzione. Quindi quando noi in Occidente parliamo con questi soggetti politici dobbiamo stare molto attenti, perché noi ne abbiamo chiuso tutto ai russi, però poi accettiamo che un regime che comunque ha dagli 80 ai 90 mila morti per sentenza all'anno e di sentenze che vanno verso la pena di morte, insomma ci va bene quello. Attualmente dalla Cina non arrivano grandi notizie, io proprio stamattina ho sentito sia un amico sia un giornalista che è in lockdown, lui abita a Shenzhen e sono tutti in lockdown duro, cioè significa che se vai dal panettiere ti dicono ma c'è ristato l'altro ieri perché hanno il codice QR per entrare, perché vai due volte? Quanto pane hai preso? Cioè siamo a sti livelli e ci sono un sacco di giovani che stanno chiusi in casa, che si ammalano, presumo di Covid, lui mi ha solo detto si ammalano, non mi ha specificato, e si lasciano morire in casa anche perché hanno perso il lavoro. Quindi questo è Shenzhen in questo momento. Ovviamente noi abbiamo Scholz che va a parlare con il neo rieletto Xi e ci dice che va tutto bene, ma in realtà ricordiamoci che lì c'è un regime forte che blocca i social network, che ha un social network tutto suo, insomma o entri in WeChat o tu non sai quello che succede in Cina. Quindi tutte le persone che vi parlano di Cina e non hanno un account WeChat probabilmente vi raccontano quello che leggono sui giornali. Infatti ricordo che proprio qui spiegai che nel 2020 tramite un giornalista della Stampa si riuscì a capire, ma perché lui viveva lì, era dentro nell'apparato, se no non sarebbe venuto fuori nulla fino a gennaio. Per tornare invece a Enrico Mattei, perché è una figura importante? È una figura importante perché lui fu il primo manager di Stato che riuscì a capire che l'indipendenza energetica di fatto fa la fortuna di una nazione. E si ritrovò, a differenza dei politici odierni, lui non si definiva politico, anche se fu deputato, si trovò a essere nominato commissario dell'AGIP, che nel 46-47 era considerato un baraccone creato dal fascismo. Addirittura durante il fascismo facevano le battute sull'AGIP dicendo che l'AGIP fosse solo un ufficio di collocamento per i gerarchi che non sapevano fare il proprio lavoro. Effettivamente un po' era così, sembrava una barzelletta, perché l'AGIP nacque per andare a scovare il petrolio e non trovò mai petrolio, nemmeno in Libia che era piena, ma evidentemente mettevano gente talmente incapace, siccome era amica dell'amico degli amici. C'era un'interessante battuta anche di Italo Balbo che disse: questi me l'hanno mandati in Cirenaica, che fanno non si sa, c'erano uffici dell'AGIP dappertutto ma in realtà erano uffici di collocamento, quindi questa gente stava a Mogadiscio, stava nelle colonie facendo finta tra virgolette di far trivellazioni che poi non faceva. Mattei infatti all'inizio venne messo come commissario liquidatore, cioè lui doveva semplicemente liquidare questo baraccone, darlo in mano agli americani. Gli americani avrebbero fatto loro le trivellazioni, soprattutto in pianura padana, perché avevamo perso nel frattempo le colonie. Ma Mattei intuì in realtà che non era un problema di AGIP in quanto non servisse a niente, era un problema di uomini di AGIP. E quindi parlò con De Gasperi, che in quel momento era abbastanza complicata la situazione, perché De Gasperi andava a parlare con le potenze straniere da perfetto perdente, quindi noi non avevamo grande voce in capitolo. Lui continuava a dire all'inizio dei discorsi: io sono antifascista, però in realtà all'estero, uscendo dalla propaganda italiana, sappiate che per americani alleati non c'erano grandissime differenze, sì abbiamo collaborato ma in realtà eravamo una potenza perdente. Quindi nell'idea della Gran Bretagna l'Italia doveva rimanere un paese agricolo, abbastanza arretrato, con poco Stato che gestisse, perché la Gran Bretagna era stata scottata dal fascismo. Cioè il fascismo aveva invece impiantato delle grandi industrie a nord e a sud e aveva costruito una flotta che durante la Seconda Guerra Mondiale aveva impensierito la Royal Navy. Quindi gli inglesi erano un po' titubanti a lasciarci troppo terreno libero. Gli americani avrebbero dato un pochino di più, però chiaramente l'alleato inglese ancora aveva un grosso peso. Quindi l'idea era quella di smilitarizzarci. In Italia non furono applicate cose severe come applicazioni come il Giappone. Sapete che in Giappone era vietato agli insegnanti parlare della storia del Giappone o esaltare qualsiasi tipo di vittoria anche del Giappone medievale, eh? Cioè proprio il Giappone è stato annientato culturalmente fino al 70, quando gli autori dei fumetti, che anch'io leggevo da bambino, hanno iniziato a prendere gli eroi giapponesi e trasformarli in fumetti. Quindi hanno spiegato la storia giapponese con la fantascienza, le storie dei samurai d'acciaio, l'eroe giapponese Goldrake, no? Perché? Perché lì non giravi intorno a questa regola abbastanza tosta che gli americani controllavano, eh? Infatti gli hanno piazzato le basi militari, non si sono mai fidati completamente, MacArthur non si è mai fidato dei giapponesi completamente. Quindi noi non abbiamo subito tutto questo perché abbiamo di fatto fatto intendere che l'Italia fosse ormai passata al di là, anche se qualcuno rimase all'estero un pochino titubante quando ci fu la famosa amnistia Togliatti, perché di fatto il PNF confluì nello Stato italiano, cioè chi aveva fatto parte del Partito Nazionale Fascista finì nei partiti detti istituzionali, e anche personaggi come Napolitano comunque avevano un passato all'interno del PNF e alcuni anche di primo piano, attenzione. Quindi ci fu questa lunghissima trasformazione del nostro paese in paese belligerante, non belligerante, poi diventò un paese civile, civile più che puntò sul civile che sul militare. Mattei intuì tutto questo e decise di non liquidare l'AGIP, decise di invece fare lui le trivellazioni, decise di parlare con De Gasperi e decise di mettersi di traverso, ovviamente agli americani, ma non solo a loro, anche agli olandesi, che gli olandesi erano famose sette sorelle che descrisse Mattei, olandesi, americani e inglesi, erano loro che comandavano. Pensate che nel 47 il 90% del petrolio mondiale era in mano alle sette sorelle, il 90%, quindi era qualcuno che fa storia più seriamente e che ha studiato le cose anche a livello economico, dice che la seconda guerra mondiale sarebbe comunque scoppiata a prescindere dalla Germania, perché troppe poche risorse erano lasciate ai paesi che non fossero all'interno di Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti. Lo stesso Giappone, che è un'isola, andò a conquistarsi la Cina proprio per una questione di spazio vitale. Ovviamente l'imperatore ci macinò tutta la questione politica, e lo stesso Mussolini e lo stesso Hitler, l'obiettivo primario era quello di recuperare economia. Infatti, però poi tre errori clamorosi anche lì, perché lasciare i Sudeti per esempio alla Germania perché si calmasse Hitler fu un errore strategico. I Sudeti erano pieni di fabbriche di armi e tutta la Wehrmacht venne riarmata praticamente dal 38 in poi, cioè se la Francia e la Gran Bretagna fossero intervenute nel 38 probabilmente avrebbero sconfitto la Germania in un paio di mesi. Non avevano ancora quel potenziale bellico i tedeschi, quindi furono fatti questi errori, insomma, che poi abbiamo pagato carissimo. Dopo la guerra si tentò di non farli più questi errori, quindi le potenze che avevano vinto cercarono di non mettere troppo il ginocchio sulla testa dei perdenti, quindi sia la Germania sia l'Italia furono lasciate espandersi anche da un punto di vista economico. Anche la Germania dell'Ovest, se vi ricordate, era una nazione che comunque aveva una forte economia perché gli americani lo permettevano. E su questo Mattei giocò perché all'Italia venne lasciato il ruolo di mediatrice in Medio Oriente, cioè gli italiani erano gli unici che venivano non trattati male da emiri, venivano accolti in Iran, non venivano guardati con sospetto nemmeno dai russi. Quindi all'inizio Mattei fece questo gioco, quindi si inserì con l'ENI all'interno di contratti che già erano preesistenti, come in Algeria, dove la Francia comandava e dove lui intuì che il gas poteva diventare un qualcosa di importante, e finì quasi per finanziare la resistenza antifrancese. Quello fu uno dei tasti che toccò internazionali, che poi forse gli costarono anche la vita, perché lì ci fu una congiuntura di persone, personaggi, elite che ce l'avevano con Mattei: le sette sorelle, gli Stati Uniti in quel caso. E i russi invece giocavano a favore di Mattei perché avevano tutto l'interesse che l'Italia non stesse troppo dalla parte degli Stati Uniti, e poi ovviamente le potenze occidentali, che vedevano nell'Italia un concorrente pericoloso perché noi eravamo gli sconfitti, ma stavamo vivendo il boom economico, cioè dal 56-57 le imprese italiane schizzarono, cosa che non era prevista, perché il piano Marshall doveva rimettere in sesto il paese, rimettere in sesto le aziende, ma non arrivare alla Vespa e alle ferie del 61 col Motel Agip. Cioè, quella è una roba che si è inventato Mattei, cioè Mattei ha dato agli italiani il benessere dell'americano degli anni 40. Noi eravamo in ritardo di 30 anni sugli americani nel 45, cioè gli americani avevano degli appartamenti con il soggiorno che in Italia erano considerati appartamenti da ricchi, cioè il soggiorno c'erano solo i ricchi, non serviva, quindi i poveracci non ce l'avevano nelle case popolari. In America invece c'era la casetta, quella che noi vediamo nei famosi telefilm di Happy Days, quello è il prototipo della famiglia americana che si sviluppa dagli anni 30 agli anni 50, è il massimo è il massimo che hanno raggiunto in America come società, tra virgolette, non troppo estremizzata, non troppo legata al consumismo. Poi lì è esplosa completamente la società americana e ha iniziato a andare verso insomma, la famiglia è esplosa, perché in America si esce di casa prestissimo, sono esplose alcune questioni poi. E questo ha battuto molto sulla società americana, anche i presidenti degli Stati Uniti, Kennedy piuttosto che Reagan erano ancora presidenti, ma anche Carter, che tenevano molto anche al filo logico del cattolicesimo, al filo logico dell'andare in chiesa, no? per far comunità, cosa che invece poi è esplosa, ma ha fatto esplodere anche la famiglia. Quindi quel tipo di America fu importata in Italia praticamente col sistema Mattei. Cioè Mattei guardò e copiò i trivellatori texani praticamente, che davano allo stato del Texas il petrolio a basso prezzo, quindi Texas divenne una potenza nella potenza americana, e lui fece la stessa cosa con il gas. Lui non aveva petrolio a disposizione, abbassò talmente tanto il prezzo del gas che le nostre aziende praticamente poterono produrre con il gas, e soprattutto diede gas all'italiano medio. La famosa bombola che si aveva fino agli anni 80, tanti ce l'avevano ancora, è un'invenzione dell'ENI, è un concetto molto diverso rispetto alla Germania o alla Francia. Questa roba qua però non piaceva, perché noi eravamo uno Stato all'interno di un sistema liberista, quindi libero mercato, e però avevamo lo Stato che controllava ancora della roba, come per esempio l'energia, in regime di monopolio, chiamiamolo così. In realtà una legge economica dice che gli stati medi come l'Italia, quindi che hanno problemi da grande potenza ma non sono una grande potenza, è bene che lo Stato controlli dei settori, come erano le telecomunicazioni e come erano tanto altro. Quando lo Stato molla quei settori e si va verso la privatizzazione, implode. E la Francia infatti non l'ha fatto del tutto, la Germania lo fa per finta, perché poi la prima crisi lei nazionalizza tutto. Adesso loro hanno nazionalizzato il gas e l'elettricità in Germania, 200 miliardi così, non si sa, loro non fa debito perché loro hanno una banca creata nel 45 per la ricostruzione, e tutte le volte che le loro imprese prendono soldi, quella banca emette dei titoli e dice no, ma è soldi profitto, quindi non fa debito, cosa che noi con la Cassa Depositi e Prestiti non abbiamo mai fatto, perché in teoria sarebbe contro le norme europee. Quindi ci sarebbe anche un attimo da rivedere alcune cose in Europa, Si è puntato molto sul debito pubblico, perché il debito pubblico è un debito che perfino gli americani non considerano in realtà, perché la California è lo stato americano più ricco e ha il debito più alto, però ha libertà di bilancio, cioè la California ha le società delle autostrade che si autogestiscono senza CDA, cioè in America c'è l'officer, decide uno e basta, se è pubblico, use post, uno c'è, non c'è un CDA, e le aziende grosse come FCA, quando ha comprato Chrysler, ci mettono dentro gli operai come azionisti, e non hanno fatto firmare i contratti a Marchionne finché lui non ha messo nero su bianco che gli operai avrebbero preso almeno il 15% in più, se no non ti vendo la fabbrica, e comunque lo Stato americano rimane dentro. Quindi anche gli americani non liberalizzano tutto come viene raccontato dai nostri fenomeni molto spesso in TV, quando raccontano cose dovrebbero un po' spiegarle meglio. E su Enrico Mattei poi c'è stata una grandissima speculazione. Adesso io vi faccio vedere due video e poi Okay. Io di solito, la Valeria mi conosce, non preparo tante slide. In questo caso le ho preparate e poi le posso anche mandare, se qualcuno me le chiede gliele mando, perché effettivamente il personaggio è proprio complesso, quindi qualcosa di scritto forse lo fa capire meglio. Comunque, questa è la parabola del gattino, che è un famoso discorso di Mattei che fece in televisione. Vorrei subito proporre all'altro Mattei, che è il protagonista della nostra serata. Oh, forse sì, va bene. Sì. Ecco, questo è importante perché qui in questo filmato vi fa capire come Mattei, insomma, non, un po' riassunto di quello che vi ho fatto io. Di introdurne l'argomento e di farlo in modo succinto, dando un panorama delle attività attuali dell'ENI che possa corrispondere alla domanda legittima del telespettatore che ha questa sera in casa sua l'ingegnere Mattei e che gli chiede, vuole spiegarci per cortesia che cos'è l'ENI. Invece di dare subito delle cifre o dei dati, preferisco incominciare raccontando un episodio personale. Una ventina di anni fa ero un buon cacciatore e andavo a caccia nelle montagne vicino a Bari. Sono montagne che vanno fino a 1000 metri. E andavamo a caccia a pernici e coturnici, quindi sui canaloni. Si sale e si scende dal mattino alla sera. E allora avevo due cani, un bracco tedesco e un setter. E cominciando all'alba e finendo a sera, gli uomini e i cani erano stanchissimi, morti. Ritornando in questa casa di contadini dove facevamo, dove ci riunivamo la sera, la prima cosa che veniva fatta veniva data da mangiare ai cani. E veniva preparato un grande catino di zuppa per questi cani. E io mi stavo togliendo uno stivale e vedevo questi due cani che erano dentro con la testa nel catino e seguitavano a mangiare con voracità. Era una zuppa che forse bastava per 5 cani, non per 2. In quel momento in un angolo sentii un miagolio e vidi arrivare un gattino grande così, uno di quei gattini dei contadini, magri, affamati, deboli. Avevo una gran paura, si vedeva, perché vedeva i cani. Però avevo anche una gran fame. E si avvicinò piano piano, miagolando, guardando i cani, e siccome i cani erano immersi con la testa nel catino, il gattino seguitava ad avanzare. Arrivò sotto il catino, guardò ancora i cani, fece un miagolio, i cani erano dentro che mangiavano, e con lo zampino lo appoggiò all'orlo del catino. Il bracco tedesco gli diede un colpo lanciando questo gattino a 3 o 4 metri di distanza con la spina dorsale rotta. Il gattino visse qualche minuto e morì. Questo episodio mi fece una grande impressione e l'ho sempre ricordato, specialmente in questi anni. E siamo stati il gattino per i primi anni, avendo contro una massa di interessi paurosi. Contro di noi si è sollevata una polemica terribile e abbiamo seguito a lavorare, a rafforzarci, cercando di non farci colpire. Il tentativo era o di soffocarci o di lasciarci deboli. Piano piano ci siamo rafforzati, lavorando con tenacia, e oggi il gruppo ENI è una grossa forza, è una grande impresa. Una grande impresa che può guardare al futuro con tranquillità e che può fronteggiare vittoriosamente la grande coalizione dei colossi petroliferi. vorrei subito proporre all'altro Mattei, che è il protagonista della nostra stesso. Allora, questo video è importante perché questa parabola chiamata così è proprio spiega che cos'è per Mattei Leni. Cioè Leni non è un ente dove lui è presidente, si alza la mattina, cioè non è la Apple, non è quella roba lì, è proprio l'espressione degli interessi italiani per far crescere il paese. Cioè quello che non si vuol capire della, cioè, perché io insisto ultimamente che a scuola va spiegato Mattei e va spiegata la sua opera e non va spiegato tanto Steve Jobs e nemmeno Elon Musk, perché Mattei non mette al centro il profitto, lui non si è arricchito, lui non era lì perché voleva più soldi sul conto corrente, lui aveva una potenza di contrattazione perché aveva dietro l'ENI e quindi aveva gli idrocarburi e tutto quello che ne consegue, ma non lo ha fatto perché voleva le strade intitolate, lo ha fatto perché sennò il nostro paese non sarebbe entrato nel G7, non sarebbe... L'Italia degli anni 50 aveva più potere a livello industriale e internazionale dell'Italia del 2022 e aveva più potere di contrattazione con gli stati esteri quando andava a parlare l'ENI. E è giusto dire anche che oggi l'ENI ci tiene in piedi in Libia, in Nigeria e in quasi mezzo mondo. Ci tengono in piedi tre industrie grosse in Italia: Fincantieri, che fa navi, quasi il 40% al mondo viene fatto dal nostro Fincantieri, l'ENI appunto, che ci fa i contratti in un certo modo, e Leonardo Finmeccanica. Leonardo Finmeccanica all'interno aveva dei gioielli come la Magneti Marelli eccetera, che ci siamo venduti poi per una serie di politiche un po' strampalate anni 90. Quindi Mattei non è l'impresario che fa i soldi, che arriva dal piccolo paesino, cioè lui, a parte che ha una visione modernissima, perché all'interno dei suoi collaboratori ci sono esclusivamente letterati. Quindi è Olivetti. Sì, come Olivetti, sì. Infatti c'è molto parallelismo con Olivetti, Ivrea, cioè queste persone che comunque, lui comunque è un ingegnere, honoris causa, eccetera, però è un ingegnere, ha una mentalità molto tecnico-scientifica, però punta sui letterati. Non li mette a casa, non dice che con la cultura non si mangia, Mattei, come dice qualcuno oggi, dice proprio che invece dalla cultura, quella del nostro paese, dobbiamo cercare di diventare un paese forte, ma non vuol dire forte militarmente, perché non ha mai parlato di armi, forte a livello proprio di produzione. E l'Italia infatti nel 72 entrò nel G7, senza il boom economico noi non saremmo entrati nel G7, tutto quello che ne è conseguito dopo è perché siamo entrati in quel club che a qualcuno può non piacere, sicuramente anch'io sono andato in piazza a protestare contro il G7 varie volte, ma non è il discorso della protesta contro le politiche del G7, è essere nei primi 10 stati al mondo. Cioè l'italiano comune è convinto di essere tipo la Grecia, in realtà a me è capitato in spiaggia, all'estero, di trovare persone che non avessero neanche capito che cos'è il paese dove vivono. Questa è una grandissima mancanza che abbiamo avuto negli ultimi 30 anni. Invece purtroppo, dico purtroppo perché quegli italiani spesso non ci sono più, ma mia nonna, pur con la quinta elementare, aveva più coscienza del paese, cioè aveva un'idea dell'Italia che era diversa, e non era per il fascismo, perché di fatto la sua forma mentis si era sviluppata ben dopo, con la televisione, con Carosello e tutta quella roba lì. Quindi quello che Mattei ha dato è stato questo. Adesso vi faccio vedere un altro video più corto, l'arroganza dei potenti. Che cosa vuol fare? Ma in Tunisia noi vogliamo costruire una raffineria. Dice, voi non farete la raffineria, dice, perché la faremo noi con una delle altre grandi società del cartello insieme, di un'altra delle sette sorelle. E gli dissi, molto umilmente gli chiesi, cosa ne pensa se invece di farlo in due, se si facesse in tre? Dice no. E allora io a questo momento tirai fuori dalla tasca la matita, avevo altri argomenti da discutere, lo guardai, li cancellai e gli dissi, ho l'impressione che non abbiamo più niente da dirci, però di qual è il colloquio di oggi se lo ricorderà per tutta la vita, perché noi siamo dei poveri, abbiamo bisogno di lavorare e non possiamo più andare all'estero come dei poveri emigranti che non hanno nessun'altra forza che le proprie braccia. Noi vogliamo andare anche noi come imprenditori, con l'assistenza tecnica e con tutto quello che un paese moderno come il nostro oggi può dare. E a questo punto ci lasciamo. Io dissi al giovane ingegnere che mi accompagnava, dico, se lo ricordi, ho visto che egoismo è terribile, è il potente, se lo ricordi per tutta la vita. In quel momento incominciò per la Tunisia, come era già successo in Marocco, nel Ghana, in Sudan, una lotta terribile, senza esclusione di colpi. Io ho visto insieme dall'altra parte società inglesi, americane, olandesi, francesi, belgi, tutti uniti contro di noi. Due volte credevo di aver perduto, poi ripresi forza, poi abbiamo vinto. Perché abbiamo vinto? Perché abbiamo posto delle condizioni che sono molto più umane, perché facciamo un'associazione al 50% con l'altro paese, che viene a partecipare al proprio lavoro nel proprio paese, non entriamo più come degli estranei. E tutto questo porterà naturalmente per il nostro paese, anche per la collaborazione economica e politica, porterà dei vantaggi. Ecco, questo era il messaggio dell'ENI e di Mattei, quindi era un messaggio di questo tipo, cioè il profitto era per il paese, non era l'ENI era l'Italia, quindi averla privatizzata è ancora dello Stato, però avendola privatizzata, come abbiamo fatto purtroppo negli anni 90, ha creato poi dei problemi. Perché? Perché adesso con il discorso delle bollette, che voi avete ben visto cosa è successo, noi abbiamo una miriade di società locali che hanno dei CDA, e i CDA mettono in mezzo il profitto, come con il discorso di autostrade. Lì chi si scandalizza e fa politica, sinceramente io non ci credo che così si sia svegliato la mattina e non sappia che ci siano dei CDA dove il suo stesso partito mette dentro gente quando perde le elezioni. Ecco, l'ENI di Mattei non aveva trombati politici, aveva Mattei e tutta una serie di persone. Mancavano un po', mancava la figura della donna, perché ce n'erano poche, molto poche, ma perché anche al tempo, bisogna dire la verità, arrivavamo da anni in cui c'erano poche donne che studiavano quel tipo di materia. Quindi c'erano, perché qualcuno ha fatto anche questa critica, però oggettivamente andare a fare questi paragoni con aziende degli anni 50 e 60, direi che bisogna sempre rapportarsi al tempo quando si fa storia, non fare, ecco, questo è un revisionismo, insomma, che delle volte non ha molto senso. Adesso sarebbe grave se in una società per magia avessi solamente un genere, guarda caso quello maschile, vuol dire che insomma c'è stato fatto qualche lavoro che non va bene. Però a quel tempo oggettivamente venivamo da problemi veramente grandissimi, quindi già tanto che si guardasse, già facevi fatica a essere uomo e povero, perché già facevi quella fatica lì. Donna e povera era quasi impossibile, ce ne sono state, non sono state valorizzate abbastanza, perché una Maria Montessori è stata per tanti anni osteggiata perché aveva preso la tessera, e chi ha preso la tessera in Italia poi ha questa fattua, eccetera. Però ecco, Enrico Mattei, adesso qua se riesco ad aprire il... Oddio, aspetta, devo fare la... se mi parte la condivisione, so già come fa. Secondo me parte eccolo qua, sì, presentazione, dov'è che non l'avevo, su modifica, vero? Questo è libro su visualizza struttura, che questo è libro office, dov'è che è? Modelli, eccola qua, scusate, ma allora, questi sarebbero stati i video, perché erano caricati, ma non li apre LibreOffice, ve li ho fatti vedere. Ecco, qui vi ho fatto, vedete, un riassunto, adesso non è che sto qui a fare la lezione, perché immagino che sia anche noioso magari, però per farvi capire che Mattei nasce proprio all'inizio del secolo da una famiglia che non è benestante per gli standard dell'epoca, ma che non è una famiglia ricca. Lui poi riesce a entrare come operaio, vedete, aiutante, a 20 anni diventa direttore del laboratorio, cioè è sempre stata una persona che riusciva a imporsi per la sua visione. E si è sposato poi nel 1936 con Greta Paula, scara viennese, quindi insomma, e lì si diplomò ragioniere, quindi studente lavoratore lo chiameremo oggi, quindi ha avuto un'infanzia. Ecco, il discorso di Enrico Mattei, partigiano, è molto particolare, perché lui è stato partigiano, però a parte partigiano cattolico, poi è stato iscritto all'AMPI, perché a quel tempo era l'Associazione Partigiani, li teneva dentro tutti, poi ne è uscito ovviamente quando è diventata troppo vicina al Partito Comunista, però lui in pratica convinse gli operai italiani a mantenere le fabbriche a mantenere le fabbriche senza fare gli attentati, cioè cercare di fare dei piccoli attentati che non distruggessero il sistema industriale, perché l'idea originale del Comitato di Liberazione era quella di distruggere le fabbriche del nord, però sarebbe stato un danno enorme perché noi avremmo dovuto ricostruire da zero. Invece Mattei fu uno di quelli, lui fu anche arrestato poi dai fascisti, pensate che riuscì a liberarsi probabilmente perché riuscì a manomettere la centralina elettrica del carcere, quindi riuscì a evadere con un scamotage un po' particolare, un po' dalla James Bond. Ecco, lui è il fondatore dell'ENI, lui ha creato l'ENI che ha messo insieme tutte quelle società satelliti che abbiamo poi conosciuto negli anni, la SNAM, la Saipem, tutte quelle società lì sono tutte entrate dentro nell'ENI praticamente, che ne ha fatto i suoi settori per farla breve, quindi una mega holding di Stato. Questo è per farvi, perché ho messo Montanelli, purché io non sia anche un estimatore del Montanelli giornalista, in quanto giornalista, però il nemico Montanelli fece un'intervista negli anni 90 e disse: io di energia non ho mai capito niente, non mi sono mai occupato di economia, era tutta roba che io non masticavo. Allora il giornalista, che in quel caso era Elkan, il papà di Lapo, gli chiese: e perché allora quella faida con Mattei? E Montanelli ci girò intorno, di fatto andarono a chiedergli una campagna stampa contro Enrico Mattei, quindi lui lo chiamò il grande corruttore. E fece uscire degli articoli sul Corriere della Sera veramente pesanti. Perché? Perché a quel tempo quel tipo di stampa era pro liberismo, quindi pro aziende estere importate in Italia, e non soprattutto la Monte Edison, voleva che arrivassero le società straniere, quindi pagava delle campagne dei giornali, funziona così. Molte volte ho notato che le persone questa cosa non ce l'hanno chiara, dei gruppi economici prendono in mano dei giornali e portano la loro idea all'interno di questi giornali e obbligano i giornalisti di fatto a seguire quella linea. Tuttora noi abbiamo dei giornali che sono espressione di una borghesia che non sempre fa ovviamente gli interessi del paese, ma fa gli interessi propri. All'estero è un po' diverso perché ci sono i conflitti di interesse che sono un po' più, però c'è anche all'estero questa cosa. È chiaro però che quando ci sono certi governi sembra che vada tutto bene con l'Europa, poi cambiamo governo e va tutto male, non è vero. Se si legge il País non troverete mai in prima pagina qualcosa contro i conti spagnoli, poi la Spagna è un disastro, la Spagna è uno dei paesi più disastrati dell'Europa, eppure si fa questo calcoletto col debito pubblico e va bene così. In realtà il problema che a me sta preoccupando in questo momento è il debito privato, quello italiano è tra i più, ed è grazie a Mattei che ce l'abbiamo così alto il debito, così basso il debito privato, perché Mattei ci ha dato anche una mentalità che più o meno ce l'abbiamo tutti in Italia, cioè ti compri la casa di proprietà, non fai rate se non ti servono le rate e cerchi di avere un'energia elettrica e la benzina a basso costo. Cioè lui ha inserito la mentalità dell'azienda sua all'interno della mentalità, infatti se voi parlate con gli italiani di quegli anni hanno tutti questa mentalità qui, però all'interno di questa mentalità ci sono le ferie, c'è comunque un attimo il godersi anche un po' la vita, non c'è solamente il lavoro, però è un godercelo non da cicala. I più indebitati d'Europa sono gli olandesi, ma perché è una mentalità mercantile, cioè ti do gli americani hanno questo difetto, il sogno americano, che non è il sogno che Mattei ha portato di qua, è: io ti faccio arrivare come i meritevoli, no? Tu sei povero e puoi diventare presidente degli Stati Uniti, ma solo tu, non la massa. Cioè quando l'altro giorno ho sentito un politico di sinistra dire: i più meritevoli dobbiamo aiutarli perché gli dobbiamo dare i soldi per andare nelle scuole d'elite, questo politico di sinistra dovrebbe dimettersi, perché un politico veramente di sinistra non dice una roba del genere, dice: non ci devono essere scuole d'élite, tu ti devi andare alla scuola pubblica, no ti do i soldi per andare alla scuola d'élite. A me che ci sia Howard con le statistiche dei ranking non me ne frega niente, c'è la scuola pubblica se sono di sinistra. Quindi come vedete c'è questa stranezza che si è, e soprattutto il liberismo vuole le persone indebitate, cioè legate al capitale. Io ti faccio indebitare, tu ti compri una macchina che non ti puoi permettere, ma l'illusione di potertela permettere ti fa indebitare. Attenzione che con la casa non è così, cioè la casa è un debito che ti lascia un immobile di valore, la macchina perde valore, a meno che non ti compri una Ferrari da collezione, ma perde valore, l'elettrodomestico perde valore, l'iPhone perde valore, sono tutti beni fittizi, la casa no, la casa di proprietà. È per quello che anche bisogna stare molto attenti alle politiche europee, perché la Germania ha sempre avuto una politica dell'affitto. Molti tedeschi affittano la macchina per venire a fare in Italia, o pensate che tutti abbiano, si possano permettere su un Mercedes? No, le affittano e vengono in Italia e gira l'economia, che in realtà non vende macchine, perché molte volte Volkswagen non vende in Germania ma affitta. Però quelle macchine sono comunque comprate, quindi se tu vai a vedere le statistiche fungono da chilometro zero, no? Che è la grande fuffa al chilometro zero, in realtà immatricolo macchine ma non le vendo. Quindi bisogna stare un po' attenti a fare le statistiche economiche, perché si rischia di mettere insieme pere, mele, caciocavalli, cioè la Francia dovete sempre prenderla simile all'Italia, è un pochino più di noi perché sono stati un po' più furbi, però più o meno siamo lì. La Spagna e la Grecia sono paesi da nemmeno prendere in considerazione per un'economia come quella italiana, perché l'economia italiana è industriale, a meno che non ci svendiamo tutto, perché questo è possibile. E se abbiamo un minimo di un briciolo, io lo dico molte volte ai miei amici, se voi volete continuare ad andare avanti a farvi le ferie come ve le fate e a farvi gli aperitivi come ve li fate, mi dispiace, ma senza un apparato industriale dietro finiremo come le Cayman, e mi pare che quelli delle Cayman non li vedete mai in giro per il mondo a farsi le ferie. Gli spagnoli li vedevate una volta a farvi le ferie? Non ce n'erano mai, perché erano dei poveracci. Noi facciamo le ferie dagli anni 60, perché abbiamo avuto dei manager di Stato come Enrico Mattei. Quindi la mia non è un idealizzare una persona, questo ci ha dato della roba in mano che noi abbiamo usato per i 50 anni dopo e abbiamo vissuto di rendita. Il problema sono stati poi gli anni dopo, purtroppo, perché abbiamo fatto delle cose. Io qui ho messo la guerra in Ucraina perché noi avevamo una joint venture con Gazprom, con l'ENI, dove ci stiamo perdendo un sacco di soldi. Quindi prima di fare determinati ragionamenti c'è l'interesse nazionale, cioè noi rischiamo grosso a continuare questa guerra in questo modo, lo rischiano anche gli americani, però lo rischiamo anche noi. E Mattei in quel caso, io ho citato Bettino Craxi perché Craxi sapeva perfettamente dove stava andando il mondo, infatti era contrario a determinate questioni, l'unificazione tedesca insieme ad Andreotti lo lasciava un po' perplesso, per esempio, perché la Germania è diventata l'espressione dell'interesse cinese in Europa, non dell'interesse e ha fatto saltare tutti i consorzi economici come l'Airbus, che è saltato per aria perché purtroppo non diventava l'interesse tedesco. Cioè Marchionne non è riuscito a comprare la Opel perché non ha voluto la Merkel. Ci rendiamo conto di come fanno gli altri stati politica? Quindi o troviamo una via di mezzo in Europa con la CE, una specie di nuova CE fatta sui consorzi, una volta c'era il carbone, il nucleare, adesso diventa difficile però col gas se non ci mettiamo sulla retta via, perché prima o poi finiranno anche le scorte. Noi non dobbiamo pensare all'inverno 2023, ma all'inverno 2024 ci deve preoccupare, perché adesso abbiamo stoccato il 93% di gas in stoccaggio, insomma con qualcosa riusciremo ad arrivare. Prossimo anno no, prossimo anno non ci sono più le royalty della Gazprom, che quindi ci girano il gas a meno prezzo. Cioè dobbiamo stare molto attenti sul discorso guerra. E ho citato Oriana Fallaci perché Oriana Fallaci capì questa cosa, e la capì Pasolini, pensate, che appunto lui non si può dire che sia una persona di destra, no? Quindi lui ha proprio creato nel suo romanzo, e dove parla anche di un personaggio dell'ENI, Cefis in realtà, però fa una parafrasi perché ha paura, infatti poi viene ucciso in quel modo, dopo nel 2005 verrà fuori che chi l'ha ucciso, ma mi hanno pagato, tutte cose molto strane. Queste erano le sette sorelle, il famoso cartello, quindi Standard Oil, famosa ancora ai tempi di Mussolini, pensate alla Standard Oil. La Standard Oil pagò l'intervento italiano nella Grande Guerra, cioè pagò i giornali perché scrivessero che era giusto intervenire, perché voleva che andassimo contro alle potenze centrali, quindi alla Germania e all'Austria. Quindi lo scandalo della Standard Oil che Matteotti scoprì un giro di tangenti internazionali che tirava dentro fascisti e comunisti e anche qualche socialista. Infatti questa cosa me la fece notare un professore di storia. Se voi guardate il discorso di Matteotti, l'ultimo, e una foto famosa dove ci sono i compagni del partito, li stanno tutti distanti, perché ormai era un cadavere che camminava ambulante. Lui stesso si definì: oggi è il mio ultimo giorno. Quindi lui aveva capito che le grandi compagnie in quel caso avevano deciso che la cosa doveva finire lì. Infatti Mussolini, che non aveva dato in realtà quell'ordine, Dumini però chissà da chi era pagato, e Dumini si presentava alle persone, piacere Dumini, mister 13 omicidi al bar, quindi insomma il personaggio andò da un notaio in America, si fece scrivere non si sa bene cosa. Sta di fatto che con quelle carte Mussolini non lo mise mai in prigione, perché aveva una paura tremenda che venisse fuori qualche scandalo. Probabilmente all'interno di quelle carte c'erano tutti i finanziamenti presi al Popolo d'Italia da parte di Standard Oil e di altre compagnie petrolifere. Mussolini poi, quando andò alla conferenza di pace, quella degli anni del 24, ci furono delle altre conferenze appendice di pace, eccetera, non toccò mai il petrolio iracheno. Lui provò a mettere le mani sul petrolio iracheno e le famose sette sorelle gli dissero: vuoi mantenere il tuo circo in Italia? Sì, allora chiudila qua col petrolio iracheno. E l'ha chiuso lì. Infatti, se notate, noi in Iraq, pur che avevamo vinto la grande guerra, non ci andammo mai, purché negli accordi preliminari c'era anche una parte di Iraq assegnata all'Italia. Tutta questa roba Mattei la sapeva. Infatti Mattei si era avvicinato al fascismo perché gli interessava la parte energetica, ha sempre avuto questo pallino, perché era già avanti. Lui aveva capito che con l'energia si fa l'economia, senza energia non vai da nessuna parte. Ecco, qui ho spiegato la holding Mattei, così se volete poi dare un'occhiata, se volete poi il materiale, anche la Liquid Gas se la inventò Mattei, quindi riesumò tutta la linea della chimica. Poi in Italia noi avevamo una linea della chimica che negli anni 80 faceva furore, il famoso Enimont, che è appunto invenzione craxiana, e lì benzina verde inventata da noi, il gruppo Ferruzzi aveva in tutti gli Stati Uniti impiantato delle coltivazioni per il biocarburante, tutta roba venduta nel 93, eh? Abbiamo venduto tutto. Quindi questo, capite, Craxi aveva sicuramente fatto degli errori, però l'hanno fatto passare. Lui è stato l'ultimo presidente del Consiglio, a meno che non avremo clamorose sorprese da una donna, che ha fatto l'interesse nazionale al 100% a Sigonella e anche in altre occasioni, e l'ha pagata tutta, e Andreotti anche, Andreotti l'ha pagata in un modo diverso, se vi ricordate. Poi l'hanno trascinato in quasi tutti i processi dove lui si è anche difeso da solo, e lui però non ha mai tradito del tutto l'alleato americano, perché per me aveva paura, però aveva paura anche lui da questo punto di vista. Però chi ha toccato quel tipo di interesse poi ha pagato un dazio. Nel caso di Craxi sapete perfettamente dove era finito Craxi: in Tunisia, perché in Tunisia era uno di quei paesi che avevamo agganciato nell'epoca Mattei. Non è tutto casuale, cioè la Tunisia era un forte alleato dell'Italia in chiave antifrancese, perché i francesi li vedevano come dei colonizzatori e gli italiani no, ed è uno dei motivi per cui anche noi dovremmo un po' sdoganarci da questa tiritera che facciamo con le colonie, perché noi dal 46 al 68 abbiamo fatto contratti a 70-30 con tutti gli stati del terzo mondo, quindi dall'Iran, che era considerato terzo mondo perché a quel tempo erano messi male, fino al Ghana, e questo non lo raccontiamo mai, cioè inglesi, francesi, gli inglesi hanno mantenuto un impero coloniale, i francesi hanno ancora la moneta coloniale, questa è una roba che una banca centrale. E altri che avevano pagato, probabilmente anche Moro, quando si è scontrato. Moro è stato, certo, ma io sono convinto che l'abbia pagata anche Berlinguer, perché Berlinguer appena si è reso conto della situazione ha chiesto aiuto dalla parte russa, però c'era una parte russa che non lo voleva più vedere, infatti in Bulgaria hanno provato a farlo fuori. E io non sono così convinto che sia finita come ci hanno fatto vedere anche con Berlinguer, perché chiunque ha toccato queste tematiche, Tullio De Mauro, l'hanno fatti fuori tutti. È un po', se posso usare il paragone, il caso, questo non lo dico a Biglio se non arrestano anche me, è il caso di Vallettopoli. Voi prendete il primo Vallettopoli del 2005, il caso Marrazzo, sono morti tutti. Tutti i trans che erano intorno al caso Marrazzo, perché a quel tempo c'era il governo Berlusconi e quindi chi è al governo cede i servizi segreti all'opposizione, il COPASI. Al COPASI c'era D'Alema che ha chiamato Berlusconi di fa, guarda che qua siamo invischiati tutti, non si salva nessuno. Poi Bunga Bunga erano cavolate, lì non si è salvato nessuno. Il Trans Brenda, che era la chiave per capire quell'inchiesta, è stato trovato morta e nella sua vasca da bagno con all'interno buttata una radio, quindi un lavoro proprio fatto anche male. E l'altro trans, che era partito per il Brasile, è stato fatto fuori davanti alla sede della Fiat. Qualcuno deve avergli dato appuntamento alla sede della Fiat Brasile e l'hanno fatto fuori. Lo spacciatore, che non c'entrava nulla, perché aveva solo portato la cocaina, non aveva fatto altro, se non che non sia una cosa bella, però non aveva fatto, è stato trovato suicidato in mezzo alla strada a Roma. Peccato che il proiettile fosse un 7,65 nato, arrivato dalla nuca. Ma perché? Cioè, qual è il collegamento tra questi e... C'era dietro anche Telecom Serbia? Questi probabilmente avevano qualcuno che era nato con queste persone, aveva dato file, perché i computer del trans erano stati tutti bruciati nel forno. Vi svelo un segreto: se questo computer lo mettiamo in un forno microonde, qua nessun informatico tira fuori nulla da qua. Quindi tutti gli hard disk, è strano che un transessuale abbia tutti quei documenti in teoria. Allora, o è stato un depistaggio, oppure evidentemente Marrazzo, che faceva giornalismo d'inchiesta, è stato, probabilmente aveva in mano qualcosa. Io con suo figlio avevo provato a parlare, ovviamente dal vivo, e non aveva risposto, ma mi aveva fatto capire che lo stesso Marrazzo ha rischiato lì, a mio avviso, che lo facessero fuori, purtroppo. E lì dietro c'era ancora anche quel problema lì. A quel tempo noi ci stavamo accordando con la Russia, questa cosa non piaceva sul gas, perché comunque uscivamo dal perimetro americano. A quel tempo era esploso di nuovo il discorso di Mattei nel 2005 e di Pasolini, perché qualcuno aveva dato le carte ai giornali. Però quei giornalisti hanno fatto degli articoli superficiali e poi hanno lasciato perdere. Hanno iniziato poi ad esserci tutte queste morti e hanno lasciato perdere. È stato proprio probabilmente una congiura tra più forze politiche. Addirittura c'erano dei filmati molto interessanti, di cui uno protagonista Edward Luttwak, che non me l'ha mai smentito al telefono, ma il filmato vi garantisco non si trova più, che dal 2002 al 2005 aveva spiegato queste robette da Vespa, è sparito tutto. Addirittura lui aveva spiegato pure la famosa provetta di Colin Powell, aveva detto c'era un fuori onda che ha girato per un po' nelle televisioni, poi è sparito, dove spiegava la connessione tra l'attacco all'Iraq, l'energia italiana e le morti che c'erano state legate a tutta la questione. Lì proprio andava fatta una commissione parlamentare d'inchiesta, che non si è mai fatta. Oggi non vi parlo della P2 perché sennò andiamo, però in realtà c'erano persone anche all'interno. Ecco, non è che io voglia, Leni non ha bisogno di avvocati perché Leni si sta difendendo da sola, però oggettivamente questo è un titolo di ieri che a me lascia un po' perplesso. Trivelle è un ritorno agli anni 90 e Leni fa festa, ma non è Leni che fa festa, visto che il 25% ce lo teniamo tutti noi contribuenti. Quindi il giornale di Travaglio in questo caso fa quello che ha fatto Montanelli, cioè fanno campagne contro, e dovrebbero, a mio avviso da giornalista, scrivere sui frontoni dei giornali quando sono di un partito, perché la persona che compra il giornale Sole 24 Ore sa che è di Confindustria. Se compro l'Unità so che è del partito, di PD, di quello che è. Ecco, il Fatto Quotidiano scriva sotto: siamo dei 5 Stelle, perché non è possibile, ogni cosa che viene detta viene ripastata e no, noi siamo indipendenti. No, non siete indipendenti. Scanzi non è per nulla indipendente, lui fa gli interessi anche lui. E ultimamente abbiamo fatto un convegno di recente, psicologi e giornalisti, dove mi hanno invitato per la questione del Covid. C'era un giornalista della 7 che mi ha fatto un intervento polemico proprio, io però ho controbattuto chiedendo: il tuo gruppo Cairo anche fa parte di gruppi borghesi che conosciamo perfettamente, allora non mi venire a dire che la Cina è un paese libero. Lui mi ha detto che la Cina è un paese libero, perché poi vai a scoprire che il gruppo Cairo è pieno di fondi in Cina e dici, bah, forse lo dirà perché gli stanno simpatici i cinesi. No, perché il gruppo editoriale che lui rappresenta ha interessi economici in quel paese. Allora io penso che questa roba però dovrebbe essere regolamentata, non può essere lasciata così allo stato brado, perché non è corretto. Anche il gruppo Elkan ha preso Repubblica, infatti adesso cambieranno il direttore, eccetera. L'ANSA è rimasta neutra, però questa è una notizia dell'ANSA. Ecco, Eni assolti Descalzi e Scaroni nel processo per corruzione in Nigeria. Allora, il processo in corruzione in Nigeria era una farsa fin dall'inizio. Hanno accusato l'Eni di inquinare, di aver corrotto le tribù, di aver addirittura... Io avevo letto un articolo del Fatto dove pareva che l'Eni fosse andata da Boko Haram a dire a Boko Haram di fare casino. Cioè... Beh, la magistratura è intervenuta pesantemente lì, È intervenuta pesantemente, tutta una bolla di sapone. Allora, questo non è per dirvi che l'Eni sono tutti angioletti e le scalze è un angioletto, no. Però, guarda caso, quando si muove l'interesse dell'Eni, l'interesse nazionale sull'energia in Nigeria, allora l'Eni per contratto in Nigeria non ha più 50-50, ha l'80-20, cioè se costruisce una raffineria deve costruire almeno 4 scuole. Tutti i villaggi intorno al delta del Niger sono tutti stati ricostruiti dall'Eni. Questo ha fatto l'Eni in Niger e in Nigeria. Sapete chi ha fatto saltare per le infrastrutture? I ribelli che sono pagati alla Francia, perché la Francia lì estrae uranio per le sue centrali, e col cavolo che fa 50-50 lo compra al 90% del prezzo più basso rispetto al mercato, fa dumping, si chiama in economia. Quindi è per quello che io mi chiedo, chi va a fare le proteste davanti alle colonne create durante il ventennio perché siamo andati in Etiopia, ha delle ragioni, però facciamole sulle cose che succedono oggi. Cioè, andiamo a salvare i popoli dell'Africa sul serio, eliminiamo quelle elite che vanno in combutta con società vergognose come la Shell, come tante altre in Africa, perché in Africa, in Congo in questo momento ci sono i bambini che lavorano nelle miniere di cobalto. E il cobalto è dentro a questa roba qua, eh? È dentro a questa roba qua, è dentro, e la Apple produce in Cina, cioè fa le produzioni in Cina e si compra la roba dall'Africa a 4 soldi. Cioè, cerchiamo di essere anche razionali, perché non si possono più vedere le persone che si fanno i selfie con questa roba qua e parlano di transazione ecologica e fanno ridere. No, non siamo più negli anni 90. Io andavo in piazza contro, come No Global, contro gli esperimenti nucleari francesi in Polinesia, esatto, nel 96-97, ma a quel tempo avevamo i mezzi che avevamo e comunque loro gli esperimenti li facevano. Adesso, se sei coerente, questa roba qui non la devi comprare. Io infatti sto pensando il prossimo, non lo so, però poi anche i cinesi, cioè compri un'altra marca, hai sempre questo problema. Quindi, come vedete, l'Eni ha ancora qualche problema. Questa frase che va un po' a chiudere il tutto, spero di non avervi annoiato: mio padre diceva che è brutto essere poveri perché non si può studiare senza titolo di studio, non si può fare strada. In realtà è una grande metafora, perché non è che chi non ha un titolo di studio non possa fare strada, lo stesso Mattei non ce l'aveva. Però Mattei credeva nell'istruzione, infatti ha creato la scuola Mattei, ha creato il master universitario, ha creato la scuola di economia, la fondazione dell'Eni, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, lui aveva questa frase qua, quante volte io l'ho sentita tante volte, detta da mia nonna: prenditi un titolo di studio, ah, ma guarda che non vai da nessuna parte se non hai un titolo di studio, ma è importante studiare, comunque almeno provaci, poi vai a fare quello che vuoi, però. Ecco, questa mentalità, sappiate, io lo dico da insegnante, non c'è più, cioè, oppure si è persa. Molte volte si esalta Steve Jobs perché non aveva la laurea, ma non è che lui era un genio dell'informatica e del marketing insieme, cioè più che altro del marketing, perché l'informatica lui era più a Bill Gates, perché erano insieme all'inizio. Cioè, questi sono dei geni che quindi possono permettersi. Einstein poteva anche non andare a scuola, cioè era un genio, però la massa non ha questa genialità, quindi tu non puoi andare a prendere ad esempio gente di quel livello lì e basta. Preferisco un Mattei che non aveva. Mattei era un geniale organizzatore, perché anche lui aveva un quid in più della media sicuramente, però l'avete visto com'era nei video? Una persona normale è una persona che non si è arricchita. Io ho fatto delle ricerche perché all'inizio pensavo fosse tutta demagogia, la vedova gli ha dovuto dare una pensione a Leni, non aveva un reddito praticamente, cioè lui aveva una casa sua e basta. I figli sono normalissimi, io ne ho conosciuto un paio, sono persone normalissime. Cioè, quello che vi volevo spiegare in questa conferenza, di prova, chiamiamola così, è proprio la figura di Mattei in vita. Adesso oggi ho fatto tutto un riassunto, vi ho anche dato qualcosa di attualità, se no diventava solamente un escursus storico e magari troppo esagerato. Però l'idea mia è questa qui, di far conoscere il personaggio, ovviamente all'interno anche di inchieste che sono state fatte sulla sua morte, quindi partendo dalla sua morte e arrivando poi al 2022. Io spero di non avervi annoiato, di avervi fatto un pelettino di più conoscere sia il nostro paese sia la figura di un personaggio. Io arrivo da una piccola polemica a Bolzano, perché sapete, poi mi taccio, Mattei ha una statua alla rotonda che porta a Merano. Ecco, la rotonda adesso è della Shell. Allora, io passare di lì e vedere la statua di lui che è pescatore, che per carità andava ad Anterselva, però voglio dire, di tutta la sua vita ricordarsi che era un pescatore di trote di Anterselva mi sembra un po' strano. Va bene, l'ha fatta un privata, mi hanno risposto, ma ok, però io credo che comunque, e ho sollecitato qualcuno anche in comune, si dia una svegliata a quei personaggi storici, anche femminili, invece di fare tutte queste pantomime e cercare dei nomi che non hanno senso. Ce li abbiamo, la storia ce ne fornisce, donne ce ne sono quante ne si voglia. Io ho fatto anche delle conferenze dedicate alle figure femminili, mai parlando di uomini, Artemisia che comandava la flotta dei persiani, ma Ipazia, vabbè, la più famosa, ma ce ne sarebbero delle artiste del 600 che sono state dimenticate. Ecco, ne possiamo Maria Montessori, che non è studiata come dovrebbe essere, insomma, ne abbiamo quante ne vogliamo. Io una volta ho spiegato la Montessori a una mia collega che teneva il corso Montessori, perché lei parlava della Montessori e a un certo punto gli faccio, ma quella lettera che gli scrisse Mussolini pare nel 23, mi fa, ah, ma io la biografia non la conosco. Cioè, capite che tu non puoi fare un corso di aggiornamento sulla Montessori e non parlare di sta donna, è la prima donna medico, è perché aveva questa, diciamo, fissa di studiare i ragazzini in quel modo lì, ma in realtà lei non aveva nessun metodo, lei aveva capito che l'ambiente può aiutare e può salvare. Cioè, se lei fosse venuta in classe mia e mi guardava le mie lezioni di matematica, non mi avrebbe criticato perché non usavo il suo metodo, lei mi avrebbe semplicemente detto, quelli che del quartiere te li sei recuperati, come facevamo noi il pomeriggio in una scuola qua a Bolzano, e vengono a sentire quattro crocchi che gli racconti, è sempre meglio che stare lì con te che invece stare per strada. Questo è il metodo Montessori, è prendere le persone, andargli a suonare se non vengono a scuola. Io non lo potrei fare da insegnante, sono andato anche a recuperarmeli al Lido, perché l'assistente sociale andava a suonargli e loro gli dicevano sto male, poi andavano al Lido. Quindi, però sapete, la mamma si prostituiva, quindi era meglio stare al Lido, allora li facevamo stare a scuola. Questi sono casi che sono qua a Bolzano, eh? Sono tutti successi qua a Bolzano, quindi voglio dire, era questo il discorso. C'è una grande, la mia paura è che la divulgazione culturale non stia funzionando, cioè noi facciamo troppo gli elitari, anche noi insegnanti, noi professori, noi facciamo dei convegni che sono fuori dalla realtà e sono dei convegni che molto spesso non sono dedicati alle persone comuni questa conferenza è uno spazio, però mi piacerebbe una volta farla alle 8:30 di sera. Oggi tante persone mi hanno detto io verrei ma alle 18 lavoro, cioè cercare spazi, no? Open space, roba di questo tipo, perché così si possono fare queste cose. Cioè, guardate che ci sono relatori che vengono gratuita, non è un problema 45 minuti di lezione, tanto ce la fai sempre. Però questo secondo me è vero volontariato culturale. E poi ci sono anche tante associazioni, qui mi ritaccio, che quando ti chiamano per fare queste cose, scusatemi, ma sono solamente lì che si mettono le spillette, perché se io ti dico che faccio una questione su Mattei, una conferenza su Mattei, 300 domande, ma c'hai tu il tuo lettore, ma chi se ne frega, ti mando un'amica che fa il teatro, però vengo a spiegarti su Enrico Mattei. Cioè, stiamo diventati troppo complicati, cioè dobbiamo prendere e fare subito, fare una conferenza, parlare, spiegare. Ringrazio Gianni perché mi ha chiamato a fare due conferenze, una conferenza di storia del Rione insieme a Rizzoli. Quella volta ci siamo messi, io con Rizzoli ho parlato al bar, non mi ero messo d'accordo, abbiamo parlato un attimo, abbiamo fatto un'oretta quant'era, e le persone poi si sono interessate sul social, eccetera, la gente è venuta. Chiaro che anche là, quello che ho detto poi all'assessore, però se ce le fai fare alle 7 di sera, ho detto, con gli anziani, questi fanno un infarto ad agosto, a luglio, quando era. Magari se ce li fai fare alle 9, che tanto non disturbiamo, se anche il quarto. Quindi vedete, ci sono queste piccole cosette che secondo me anche le persone comuni si sono tolte dalla cultura anche per questo motivo. Cioè un po' troppo elite delle volte, ecco, quello sì, che manca un po'. Di un po' che... platee un po', no? Ricercate. E cercare queste platee dove c'è sempre il professore che non ti viene mai per esempio, io ho un problema con i miei colleghi, questi non fanno polemica, cioè un professore che non fa polemica ha sbagliato lavoro, perché è nella polemica che tu hai scritto il piacere, a me non mi piace D'Annunzio, bene, ne parliamo, a me Carducci fa schifo, bene, ne parliamo, cioè è nella polemica che è nato Papini. Se no Papini non avrebbe scritto niente, non fosse... cioè il polemista è il ruolo del professore, il professore deve stimolare gli studenti e dire, ma sei sicuro che, perché se tu fai le cose lineari sei un pupazzo, oppure, e a me è successo anche con l'economia, subito si offendono, ma ragazzi, stiamo parlando di, io ho un'ideologia, tu hai una tua ideologia, ci mettiamo, ecco, su questo Mattei secondo me può essere un bel esempio. Qua ho finito perché sennò vado avanti fino a domani mattina e mi annoio.